cartoline per Copenaghen. Marush Narangku, 68 anni e 14 figli cresciuti come pastori nella Mongolia occidentale. Quando ero giovane, ricorda, il lago Karus era bello, era pieno di vita e lungo le sue sponde c'erano molti animali al pascolo. Poi il clima nella nostra zona è cambiato. I ghiacciai dei monti Yargalan si sono sciolti e il livello dell'acqua nel lago è sceso. L'equilibrio della vita pastorale è fragile e Marusha dà voce a una comunità allo stremo. Gli ultimi 5 anni sono stati critici, dice. Il lago si contrae, i pozzi si asciugano, le piogge si sono ridotte e soprattutto si è ridotto il flusso d'acqua che in primavera arriva dalle montagne circostanti. Il bestiame si è più che dimezzato e molti si sono già trasferiti. Nel 2002 avevo 600 capi, ora ne ho 250 e alcuni di loro sono morti intrappolati nel fango di ciò che resta del lago. La gente dei pascoli ha ormai capito che non sarà più possibile tornare al passato. Abbiamo ridotto le mandrie e ci siamo uniti per mitigare gli effetti del cambiamento. Vogliamo almeno conservare in maniera dignitosa il nostro stile di vita, conclude Marusha, che dice: la situazione della comunità è ormai grave, ma non vogliamo andarcene, questa è la nostra terra.